Rispetto alla nostra missione, quello che abbiamo potuto riscontrare è una sorta di stato di disperazione delle persone che prima di tutto nei saccheggi e nei bombardamenti contemporanei hanno perso praticamente ogni cosa, ogni loro proprietà, la casa e gli affetti più cari. Oltre a questo c'è una generale sorta di insicurezza. Insicurezza legata alle condizioni evidentemente molto precarie nei campi profughi, relativamente soprattutto alle persone sfollate, cioè le persone che non sono rifugiate nel vicino Chad, ma che in qualche modo vivono sfollate sempre all'interno del Sudan. Perché? Perché sia al di fuori che dentro i campi resta il pericolo dei Janjaweed e resta il pericolo soprattutto di come i Janjaweed siano integrati nelle forze locali di polizia e come collaborino l'uno e l'altro con lo Stato centrale. Quindi il sentimento profondo di insicurezza è anche dettato da un sentimento profondo di mancanza di credibilità che riguardo a queste persone, alla popolazione civile colpita dal governo centrale di Khartoum. Riguardo alle autorità governative, diciamo che noi, anche se con fatica e con l'aiuto delle sezioni di Amnesty tutto il mondo, abbiamo ottenuto un accesso illimitato ai siti che abbiamo richiesto, per cui non abbiamo avuto limitazioni alla nostra opera, mentre purtroppo sappiamo come attivisti per i diritti umani, semplici testimoni, sono in questo momento perseguitati dal governo centrale, arrestati, nel tentativo di arginare qualsiasi testimonianza che vada all'esterno del Sudan. La reazione dell'autorità, che poi è quella che conta, è ambigua anche qui, nel senso che parlando con alcune autorità c'è l'ammissione che qualcosa stia succedendo, anche se in forma, diciamo, diplomatica in un certo modo, mentre la gran parte delle autorità sudanesi, fra l'altro le più importanti, sono quelle che erigono un muro e negano qualsiasi tipo di situazione critica, continuano a parlare di situazione sotto controllo e di fatto questo non fa che praticamente negare le responsabilità significa rendere molto lento il processo di riparazione e soprattutto di fine di queste violazioni dei diritti umani continua. Diventa sempre più un braccio di ferro tra il governo centrale e la comunità internazionale che non porta benefici alla popolazione civile. La comunità internazionale, rappresentata dall'Unione Africana e dalle Nazioni Unite come organo che noi identifichiamo come portavoce della comunità internazionale, si sono avuti timidi passi. Noi chiediamo che ci sia una volontà politica molto forte nell'intraprendere alcune azioni e che tutte le azioni, compresa l'ultima risoluzione, non debbano essere prove di forza rispetto agli stati che fanno parte del Consiglio di Sicurezza. Cioè, vorremmo che veramente al centro ci fosse la popolazione civile, che non si spaccino conflitti tra etnie, quando magari i motivi potrebbero essere diversi, e che si vada al nocciolo della situazione. Cosa voglio intendere? Intendo che, per esempio, Amnesty chiede fortemente una cosa che potrebbe essere applicata fin da subito, c'è un embargo che le Nazioni Unite hanno messo in atto verso i gruppi armati, quindi i Janjaweed, che operano di fatto alle violazioni dei diritti umani per quanto riguarda quello che pensiamo noi in simbiosi col governo centrale. Noi chiediamo fortemente, e non è una cosa difficile da fare, basta la volontà politica, di estendere questo embargo anche al governo ufficiale, e abbiamo già tagliato gran parte delle risorse in armamenti che sono utilizzate per le violazioni dei diritti umani. Noi chiediamo che gli osservatori abbiano un mandato ampio.